Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sull'immigrazione, l'Italia penserebbe al ripristino dei controlli al confine con la Slovenia. L'Europa convoca Svezia, Danimarca e Germania per un coordinamento. E fa discutere il bando del Comune di Milano fino a 400 euro al mese alle famiglie che ospiteranno i profughi. Centrodestra all'attacco, si usino per gli italiani. Le borse stentano a recuperare dopo la giornata pesante di ieri. Milano lievemente positiva, in ribasso le altre piazze europee. In Cina interviene il governo con 20 miliardi. Il professor Paolo Becchi lascia il Movimento 5 Stelle, è diventato una stampella del Partito Democratico e Grillo è un ologramma. Terrorismo, il bambino ritratto nel video dell'ISIS è riconosciuto dal nonno inglese, è partito per la Siria con mia figlia, convertita all'Islam. Iniziano oggi i saldi, roulotte, camper, code fin dall'alba davanti ai grandi outlet e centri commerciali. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il consueto punto di Radio 24 a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo. Come sentite, oggi la voce sta lentamente tornando, forse anche grazie ai messaggi che ci avete mandato ieri di solidarietà. In apertura torniamo sulle chiusure dei confini avvenute ieri in Svezia e Danimarca e sulle mosse che potrebbe preparare l'Italia. Sta già avendo un effetto domino che rischia di minare il patto di Schengen sulla libera circolazione, la decisione svedese di ripristinare i controlli nei collegamenti con la Danimarca, una stretta sull'immigrazione di fronte alla quale anche il governo danese ha risposto ripristinando a sua volta i controlli alla frontiera con la Germania. Schengen è in pericolo, è l'avvertimento che arriva da Berlino. La Commissione europea ha convocato domani i rappresentanti di Svezia, Danimarca e Germania. La crescente pressione dei flussi migratori, soprattutto quelli che passano per la rotta balcanica, preoccupa però molti altri governi europei. E mentre fatica a decollare il piano per la redistribuzione dei migranti, a decidere di seguire l'esempio di Svezia e Danimarca, presto potrebbe essere anche l'Italia. Secondo indiscrezioni di stampa, il nostro Ministero dell'Interno avrebbe già pronto un piano per ripristinare i controlli alla frontiera con la Slovenia, dove nell'ultimo periodo sono arrivati fra i 300 e i 400 migranti ogni settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto un nuovo naufragio in Turchia, le vittime sono almeno 21. Ancora morti sulla costa Egea della Turchia, oltre 20 migranti, secondo quanto riportato dalla Reuters, sono annegati mentre cercavano di raggiungere l'isola greca di Lesbo. I corpi sono stati trovati questa mattina nei distretti di Ayvalık e di Dikili dopo che due imbarcazioni si erano rovesciate a causa del maltempo. Tra i morti ci sarebbero anche diversi bambini. Il naufragio è avvenuto all'alba, intorno alle 5 del mattino. La Guardia Costiera turca ha tratto in salvo diversi naufraghi, alcuni dei quali sono stati ricoverati in ospedale in condizioni di grave ipotermia, mentre gli elicotteri continuano a sorvolare il mare alla ricerca di altri eventuali sopravvissuti. Il governatore di Ayvalık, Namık Kemal, ha dichiarato che ci sono ancora dei dispersi e che i migranti provenivano per lo più da Iraq, Algeria e Siria. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 700 persone sono morte o scomparse lo scorso anno tentando di attraversare il Mare Egeo, mentre sempre nel 2015 un milione di migranti è arrivato in Europa. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E di tutto questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione, partendo da Milano, dove fa molto discutere questo bando del Comune di Milano, appunto nel quale si prevedono fino a 400 euro al mese per le famiglie che ospiteranno profughi. E poi parleremo con Anna Maria Corazza Bilde, un europarlamentare del Partito Moderato svedese, per aiutarci a capire che cosa rappresenta questa chiusura dei confini da parte della Svezia. Intanto passiamo e torniamo a parlare di mercati anche oggi, perché la giornata fa segnare un parzialissimo recupero, quantomeno a Milano, dopo i cali di ieri. Facciamo un punto con Andrea Fontana di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone. Forse ci si aspettava qualcosa di più. Sì, ci si aspettava qualcosa di più, anche perché le premesse c'erano, le borse erano partite in rialzo di circa un punto percentuale e l'intervento della banca centrale cinese e del governo cinese nell'immettere liquidità a 20 miliardi, quasi 20 miliardi di dollari a sostegno dei mercati finanziari aveva posto le premesse per tranquillizzare almeno parzialmente gli animi. Invece guadagni si sono progressivamente erosi nel corso della mattinata e ora sono in rosso, a parte Milano come ricordavi, la gran parte dei listini europei. I future di Wall Street, le prime indicazioni sull'apertura di Wall Street sono anch'esse negative, per cui sembra che quelle potenzialità di rimbalzo siano complessivamente esaurite. Ti ringrazio intanto Andrea Fontana per questo aggiornamento, per darvi un'idea di come stanno andando gli indici nel dettaglio. Il FTSE All Share guadagna lo 0,27%, il FTSE MIB lo 0,38%, ma come si diceva appunto Francoforte perde mezzo punto percentuale, Parigi altrettanto e Londra cede lo 0,10%. Alle 13.30 poi ritroveremo i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, come sempre per un punto più dettagliato anche sui singoli titoli, sull'andamento dell'economia e delle borse, così come pesa la vicenda cinese, pesano anche le tensioni medio orientali, quelle tra Iran e Arabia Saudita, che si fanno sempre più intense. Oggi a parlare è stato il presidente iraniano. Sentiamo. Devo dire che già due o tre giorni fa la mia preoccupazione non era così alta, adesso devo dire che inizio a essere più preoccupato. Perché comunque l'equilibrio. Allora, c'è stato un piccolo problema. Questa è un'intervista dedicata esattamente a questo tema. Sentiamo invece il servizio. Intanto così facciamo il punto di giornata e poi ascoltiamo l'analisi. L'ONU prende posizione nella crisi sempre più forte tra Arabia Saudita e Iran, condanna solo Teheran. Il Palazzo di Vetro invita l'Iran a rispettare i suoi obblighi internazionali di protezione delle sedi diplomatiche dopo l'assalto all'ambasciata saudita e agli uffici consolari. Rivolte innescate dalle 47 esecuzioni disposte da Riyadh, compresa quella del leader sciita al-Nimr, ma su questo nessuna parola dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che genericamente invita le parti a mantenere il dialogo e ridurre le tensioni. Tensioni cresciute invece sempre di più dopo la rottura dei rapporti diplomatici e l'interruzione dei voli tra le due capitali, e ora anche il Kuwait richiama il suo ambasciatore da Teheran. L'Arabia Saudita non può coprire il suo crimine dell'aver messo a morte l'imam, rincara il presidente iraniano Hassan Rouhani, mentre si intensificano gli sforzi di mediazione dalla Casa Bianca a Mosca alla Turchia nel tentativo di evitare che la crisi possa degenerare ancora, con conseguenze che nessuno può immaginare. E per scongiurare questa prospettiva, l'inviato dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, visiterà prima Riyadh, poi Teheran. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo dunque all'intervista della quale avete sentito l'apertura pochi istanti fa, sugli scenari appunto di questa tensione internazionale. Abbiamo sentito il professor Peyman Abdolmohammadi, italo-iraniano, docente di politica internazionale alla John Cabot University a Roma. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Devo dire che già due o tre giorni fa la mia preoccupazione non era così alta, adesso devo dire che inizio a essere più preoccupato. Perché comunque l'equilibrio di potenza in Medio Oriente è molto fragile, il minimo che può fare è aumentare quello che è già in corso, ma può creare anche nuovi fronti di conflitto. E questi fronti nello Yemen, in Siria e in parte in Iraq possono avere un aumento di tensione, ma con nuovi fronti, io per esempio penso al Libano, se dovesse questa cosa latente diventare più pericolosa, questo avrebbe delle influenze e delle conseguenze estremamente negative sia per il Medio Oriente ma sia per il Mediterraneo, e di certo l'Europa non ne sarà immune. In tutto questo l'Europa secondo lei come si colloca? Cosa dovrebbe dire o fare? L'Europa purtroppo è in questo momento un attore globale debole e non ha una forte capacità di intervento diplomatico e strategico, ma avrebbe una potenzialità enorme dal momento in cui sia l'Iran, soprattutto l'Iran forse, vede nell'Europa un mediatore o comunque un attore globale importante, un mediatore anche importante per arrivare agli Stati Uniti, e quindi l'Europa potrebbe esercitare un ruolo più significativo, in parte lo ha esercitato durante il nuclear deal, e chiaramente la mancanza di una politica estera comune è un danno, è alla politica difensiva comune, è un danno che comunque dal punto di vista strutturale l'Europa soffre. E ci occupiamo adesso di terrorismo. Il bambino ritratto in Siria in un video dell'ISIS è stato riconosciuto dal nonno, un tassista inglese. It's my grandson. I know him very well. È mio nipote, lo conosco bene. A parlare all'emittente britannica Channel 4 è Henry Dare, il nonno del piccolo jihadista londinese di appena 4 anni, apparso in divisa militare con in testa una bandana nera con il simbolo di ISIS nell'ultimo video dell'organizzazione terroristica, dove ha lanciato una nuova minaccia: uccideremo i miscredenti britannici. Dare, inglese di origine nigeriana, avrebbe riconosciuto dal video il nipote Aisa, un nome arabo equivalente di Gesù, già soprannominato Jihadi John Jr. Il bambino è nato da sua figlia Khadija, che si è convertita all'Islam diversi anni fa, e dalla Siria, dove ha sposato due terroristi ISIS, ha dichiarato di voler essere la prima donna a sgozzare un ostaggio. La donna, 24 anni, ha già usato AISA a fini propagandistici, postando sui social media una foto di suo figlio che impugna sorridente un Kalashnikov. It's a propaganda. Mio nipote non sa niente, ha detto il nonno da Londra. È solo un bambino piccolo che viene usato come scudo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E altri 3 arresti ci sono stati a Genova di persone sospettate di appartenere a reti terroristiche. Si chiama Abdel Kader, 50 anni, nato in Libia con passaporto svedese. Secondo un'informativa dell'Interpol, sarebbe un integralista islamico sospettato di fiancheggiare cellule terroristiche. I poliziotti lo hanno bloccato domenica sera all'imbarco sul traghetto Cartagio, in partenza per Tunisi. Era al volante di un'auto nuova di zecca, dietro di lui 2 libici alla guida di altrettante vetture, tutti veicoli dalla provenienza dubbia. L'arresto è scattato per riciclaggio con l'aggravante di terrorismo. Sul cellulare di Abdel Kader, foto inneggianti l'ISIS e immagini di armi. Ombre, sospetti e timori, gli stessi che aleggiano sui 2 fratelli di origine iraniana, almeno così dicono, arrestati con documenti falsi giovedì scorso all'aeroporto di Genova prima di salire su un aereo per Londra. I 2, fratello e sorella, raccontano di un lungo viaggio per raggiungere l'Occidente e convertirsi al cristianesimo. Una verità densa di punti oscuri e reticenze. Gli inquirenti non gli credono, eppure a loro adesso contestano l'aggravante di terrorismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca. Dopo che Ilaria Cucchi, sorella dell'uomo morto nel 2009 mentre era in custodia cautelare, ha deciso di pubblicare la foto in costume al mare di uno dei carabinieri indagati per aver ucciso lo stesso Cucchi, Lucia Uva, sorella di Giuseppe, morto nel 2008 dopo essere stato arrestato da carabinieri e polizia, ha fatto la stessa cosa con l'immagine di un altro agente coinvolto. L'analisi di Daniele Biacchessi. È accaduto che Ilaria Cucchi ha postato su Facebook la foto di uno dei 5 militari indagati per la morte del fratello Stefano nell'ottobre 2009. Il carabiniere l'ha denunciata perché, dice lui, a causa di quel post gli sono giunte minacce pubbliche e private. Stessa cosa ha fatto Lucia Uva, sorella di Giuseppe, morto il 14 giugno 2008 all'ospedale di Circolo di Varese, dopo essere stato fermato ubriaco per strada e trascinato in caserma. I processi sembrano dunque spostarsi dalle aule giudiziarie agli schermi televisivi fino ad invadere in queste ultime ore i social network. Ciò avviene, al di là delle modalità utilizzate, anche perché i processi e le inchieste non hanno saputo, o forse voluto, offrire una verità giudiziaria ai familiari delle vittime, che hanno visto i loro fratelli e figli entrare vivi nelle caserme e uscire senza vita a causa di violenze inaudite, come accaduto a Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Federico Aldrovandi, e senza l'accertamento delle cause e l'individuazione dei responsabili, la verità si allontana e lo Stato diventa ancora più fragile. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Las Vegas, dove si sta svolgendo il Consumer Electronics Show e dove si trova il nostro Enrico Pagliarini. Enrico. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Qui a Las Vegas contiamo le ore per l'apertura dei padiglioni del CES domani, perché qui non è festa. Per quanto riguarda oggi, c'è una lunga giornata dedicata alle conferenze stampa che verrà aperta da Ford nel pomeriggio italiano, quando qui saranno le 7.30, quindi sveglia molto presto. E la giornata verrà chiusa dal numero uno del settore auto di Volkswagen, Herbert Diess. E devo dire che i produttori di auto puntano sulla tecnologia molto, ed è per questo che sono presenti già da qualche anno al CES, dove normalmente si parlava e si mostravano solo televisori, smartphone, oggetti da indossare, tecnologia per la casa, insomma il classico mondo dell'elettronica di consumo. A proposito di auto, ieri sia Fiat Chrysler che Ford hanno lanciato novità che riguardano i sistemi di infotainment che passano oggi spesso attraverso lo smartphone. Alcune auto di Fiat saranno compatibili con Apple CarPlay e Android Auto già da quest'anno, mentre Ford promette di inserire su tutti i modelli entro il prossimo anno i due sistemi operativi per auto che, come molti di voi sapranno, permettono di interagire in modo sicuro sia con gli smartphone iOS che con Android. Per concludere con il settore auto, ieri sera c'è stata una cerimonia di lancio molto sontuosa di una concept car di una società che si chiama Future Faraday, una società ancora poco nota, abbastanza misteriosa. È un'azienda americana che ha sede in Silicon Valley, finanziata da capitali cinesi, e pare che abbiano investito un sacco di soldi. Puntano a fare concorrenza a Tesla far qualche anno con auto a propulsione elettrica. Vedremo poi se le promesse saranno mantenute. Poi c'è un altro grande tema, che è quello della realtà virtuale. Se ne parla moltissimo e c'è chi dice che quest'anno sarà l'anno della virtual reality, ma di questo parleremo più tardi nel nostro speciale 2024 in onda alle 14. Vi aspettiamo. Per il momento da Las Vegas è tutto, la linea torna allo studio di Milano. Ottimo, ottimo, grazie al nostro Enrico Pagliarini, che dunque ritroviamo alle 14 per chiudere questa prima parte della trasmissione. Un punto calcistico nella giornata del ritorno del campionato e nel secondo giorno di calciomercato. Giovanni Capuano, ciao. Sì, tutto poco virtuale e molto concreto. Di concreto sul mercato oggi c'è poco, anzi non c'è nulla, ma del resto è giornata di calcio. C'è questa sera alle 20.45 il derby della Lanterna tra Genoa e Samp, dove ci sarà il debutto di Rincon e Suso, che sono i due colpi del Genoa. Non ci sarà Alvarez, ma solo perché il transfer è arrivato davvero negli ultimi minuti e Alvarez non gioca da sei mesi, quindi ha bisogno di tempo per rimettersi in forma. Domani c'è tutto il resto del programma, c'è dunque la ripresa del duello in vetta, dove mancano 180 minuti per capire chi sarà la squadra campione d'inverno. E lo ricordiamo, da quando c'è il campionato a tre punti, nel 75% delle occasioni chi è primo al giro di boa e primo poi anche a maggio e vince lo scudetto. C'è poco di virtuale anche in quello che è successo e sta succedendo in queste ore a Madrid. Lo avete sentito sicuramente, ieri in serata è arrivato l'esonero di Rafa Benitez, la presentazione di Zinedine Zidane, che questa mattina ha diretto il primo allenamento a Madrid. Solo 6.000 spettatori, che sono pochi per le medie di Madrid in giornata in cui una leggenda del Real come Zidane effettua il suo primo allenamento. Ma la parte particolarità è questa: un sondaggio lanciato da Marca, che è un po' la gazzetta dello sport di Madrid, a cui hanno risposto in massa i tifosi del Real. Ebbene, 6 su 10 sono convinti che Zidane non sia in grado di fare l'allenatore del Real. E insomma, questa è una buona partenza per una squadra che deve risalire nella Liga. Vedremo se Zizou sarà in grado di smentirli. Ne parliamo ovviamente tutti convocati a partire dalle 14, o meglio 14.05, insomma più o meno siamo là col nostro Giovanni Capuano. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Tra gli altri argomenti che affronteremo ci sarà questa vicenda di questo bando del Comune di Milano che sta facendo molto discutere, nel quale si prevede di dare fino a 400 euro a famiglia per chi ospita profughi. Tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: sull'immigrazione l'Italia penserebbe ad un ripristino dei controlli al confine con la Slovenia, dove stanno premendo molti migranti e profughi. L'Europa convoca intanto Svezia, Danimarca e Germania per un coordinamento dopo la chiusura dei confini da parte appunto di Svezia e Danimarca. Le borse stentano a recuperare dopo la giornata pesante di ieri. Milano in questo momento guadagna lo 0,26% sul FTSE All Share e lo 0,37% sul FTSE MIB. Negative le altre borse europee. Il governo cinese ha immesso 20 miliardi di dollari sul mercato dopo il crollo di ieri. Terrorismo: il bambino ritratto nel video dell'ISIS è stato riconosciuto dal nonno inglese. È partito per la Siria con mia figlia, ha raccontato l'uomo, convertita all'Islam. E veniamo alla politica in apertura di questa seconda parte, per una notizia che farà discutere all'interno del Movimento 5 Stelle e riguarda il professor Paolo Becchi, che ha sempre detto: non sono un portavoce del Movimento, però sono un aderente fedelissimo, e oggi ha annunciato la sua uscita dal Movimento. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, è il caso di dire che il Movimento 5 Stelle perde un pezzo extraparlamentare. Il professore Paolo Becchi, definito l'ideologo dei grillini, annuncia l'addio in un'intervista sul quotidiano online Formiche. Anche Grillo, dice, è divenuto un ologramma. Il Movimento 5 Stelle si sta trasformando in un partito ibrido e ha stretto con il PD un nuovo patto dopo quello del Nazareno, facendo da stampella al governo Renzi. Becchi annuncia di aver provveduto alla cancellazione dell'iscrizione lo scorso 31 dicembre. Da una parte il Movimento acchiappa ancora chi crede negli ideali di rottura, dice il professore, dall'altro si avvicina alla logica partitica. È passato dal Movimento liquido di Grillo al partito ibrido di Casaleggio. Con l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale si è capito il patto segretissimo tra PD e Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, secondo Becchi, è stato sconfessato addirittura dal vicepresidente della Camera sul Financial Times. Luigi Di Maio ha detto infatti che non sono favorevoli all'uscita dell'Italia dalla NATO, come sostenuto dal fondatore. Agli inizi sarebbe stato radiato. Grillo aveva promesso un referendum sull'euro, adesso non ne parla più nessuno. Grillo è sempre più assente, è diventato un ologramma anche lui. Il sogno è finito, dice Paolo Becchi. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento di politica. Abbiamo tra le nostre notizie principali l'andamento delle borse, e tra queste, come abbiamo detto, c'è Francoforte, che è in calo. Chissà quanto pesa anche l'andamento di Volkswagen, che questa mattina cede il 6,5%. Tutto questo sulla scorta delle notizie arrivate dagli Stati Uniti, per cui si immaginano maxi risarcimenti per la vicenda del Dieselgate. Facciamo un punto con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, quanto potrebbe costare questa vicenda, almeno in tutta teoria? Poi spiegheremo nel dettaglio che la teoria non è detto che venga rispettata. Prego. È molto difficile. Diciamo che rispetto alle cifre che si erano fatte a settembre, cioè 18 miliardi di dollari, addirittura ieri l'agenzia Reuters ha sparato un 90 miliardi di dollari che si ricavano perché la causa civile depositata ieri dal Ministero della Giustizia prevede 4 capi di imputazione, quindi in sostanza hanno moltiplicato per 4 le potenziali penalità. Ora, tutti sono convinti che assolutamente non si arriverà a penali di questo tipo, intanto perché c'è un giudizio, quindi il giudice dovrà valutare la consistenza delle accuse e l'azienda potrà difendersi. In secondo luogo perché è rarissimo che in questi casi si arrivi a una sentenza, di solito si raggiunge un accordo extragiudiziale. Tra l'altro la causa depositata ieri è proprio un momento, diciamo, della battaglia che il Ministero, per conto anche dell'Ente per la Protezione Ambientale, sta portando avanti contro la Volkswagen, che continua a avere un po' di ritardi nella sistemazione dei problemi negli Stati Uniti. Ricordiamo che le auto diesel implicate sono circa 500.000 negli Stati Uniti, più altre 80.000 per le quali l'Ente per la Protezione dell'Ambiente accusa, ma Volkswagen dice non abbiamo installato nessun software illegale. In sostanza la vicenda sarà ancora abbastanza lunga. Ovviamente di fronte a cifre di questo tipo, di fronte comunque al rischio di penalità che sicuramente dovrebbero essere di miliardi di dollari, il titolo, come hai detto tu, ha ripreso a scendere. Il calo in 2 giorni è stato superiore al 10%, gli investitori scelgono la strada della prudenza e, appunto, se possono, alleggeriscono le posizioni. Ovviamente vendono. E grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore. Noi torniamo a parlare di un altro dei nostri temi principali di oggi, che è quello dell'immigrazione. 400 euro a famiglia, almeno è il livello massimo, è la cifra contenuta in un bando del Comune di Milano, 400 euro al mese per chi ospiterà dei profughi. È una decisione, un bando che ha suscitato le proteste sostanzialmente di tutto il centrodestra, a partire naturalmente dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Ne parliamo con Pierfrancesco Maiorino, che è l'assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano. Maiorino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. dice il centrodestra, dice, ma insomma questi soldi, per così dire, dateli agli italiani, cioè metteteli nei servizi sociali e in altre cose utili di questo tipo. Che cosa rispondete? Ma noi rispondiamo con dei fatti molto semplici. Il primo è che sono risorse statali, queste nate da un accordo tra il governo e l'Associazione Nazionale dei Comuni, riguardanti gli interventi relativi alle persone che godono di protezione umanitaria. Quindi Maiorino, quindi non si possono usare per altro che per i profughi, dice lei? Assolutamente, queste sono risorse vincolate e anzi in questo modo noi generiamo un risparmio, perché diciamo che ci sarà un costo al giorno per rifugiato ospitato dalle famiglie di circa 12 euro, laddove invece per utilizzare altri modelli che pure sono in atto in tanti comuni italiani se ne spendono magari 35 per collocarli in strutture riguardanti l'accoglienza. Quindi si risparmia pure. Poi ovviamente c'è bisogno della disponibilità della famiglia milanese, perché se noi, che secondo la destra siamo così brutti e cattivi con i milanesi, non troviamo disponibilità delle famiglie milanesi, non si fa nulla di tutto ciò. Ma poi c'è un'altra questione cruciale che rivendico e di cui non si parla mai. Il Comune di Milano è il Comune d'Italia che mette più soldi in azioni contro le povertà, che vanno ai nostri concittadini, tanto per dire, 27 milioni di euro circa bilancio, mettendo insieme varie risorse. Ora, la Lega non può continuare a accorgersi mi scusi, perché questo è fondamentale. La Lega non può continuare ad accorgersi dei poveri milanesi o dei poveri lombardi o dei poveri italiani quando ci sono in gioco gli immigrati e poi non far nulla, ad esempio, per introdurre in questo paese una misura di sostegno al reddito nazionale che non esiste. Senta una cosa, Maiorino, il progetto è un progetto pilota, mi sembra di capire, cioè il bando è per 5 famiglie per il momento, no? No, il bando, allora diciamo che intanto noi stiamo raccogliendo le disponibilità di famiglie, peraltro addirittura tutto ciò va detto che nasce pure da una sollecitazione delle famiglie stesse di tempo fa e quindi che si erano dette disponibili ad accogliere migranti. Siamo in questa fase sperimentale e vogliamo giudicare questa sperimentazione come tale, cioè vediamo se davvero ha gambe per funzionare un modello del genere di accoglienza diffusa in abitazioni. Peraltro io l'avevo detto l'11 settembre del 2015, era sui giornali del 12 settembre, io vorrei provare a sperimentare questa forma anche per famiglie milanesi poi sfrattate, cioè a me interessa molto l'idea di un'accoglienza diffusa sul territorio cittadino attraverso un mutuo aiuto tra le persone. Ultima domanda, riguarda il bando l'accoglienza di richiedenti asilo o di persone che hanno già ottenuto la protezione internazionale? Innanzitutto di persone che hanno ottenuto la protezione, poi possiamo ragionare in futuro se estenderlo, però partiamo diciamo da chi ha ottenuto la protezione e a gestire questo tipo di azione è chiamata Farsi Prossimo, che è un'esperienza vicina al mondo Caritas, molto attiva e io credo anche molto affidabile proprio su questi terreni, perché poi non è facile, è più facile dirlo che farlo. Sì, perché poi, comunque, bisogna controllare anche che le famiglie, bisogna anche controllare alla fine che le famiglie rispettino il bando, perché ci sono comprese una serie di cose, tra cui una stanza, un bagno dedicato, il minimo spazio per mettere i vestiti, insomma magari invece li mettono, che ne so, in un bugigattolo e poi si beccano i 400 euro e quindi qualcuno dovrà controllare, no? È chiaro, bisogna controllare che sia un'esperienza che funzioni, certo. Ma io credo che su tutta la partita dell'immigrazione, la faccio brevissima, giuro, su tutta la partita dell'immigrazione bisogna essere molto più concreti e molto meno ideologici, cioè basta fare sto cancano ogni volta di scontri tra destra e sinistra, parliamo di esperienze concrete, quelle che servono e quelle che non servono, in quest'ottica è una sperimentazione che facciamo. Grazie a Pier Francesco Maiorino, assessore politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, e noi cambiamo decisamente argomento e parliamo di saldi. Ieri vi abbiamo dato un po' di cifre, Confcommercio che ipotizza intorno ai 5 miliardi e mezzo di spesa, una crescita del 3% rispetto all'anno scorso. Bene, oggi sono iniziati. Molti vi raccontano quello che succede nel centro delle città, ma ormai lo shopping si è spostato da altre parti. Questa mattina a Serravalle c'era gente che addirittura ha dormito in camper e in roulotte dalla sera prima davanti all'outlet per poi arrivare praticamente e non fare la fila. Andrea Ferro ha raccolto qualche voce di queste persone. Ah, partiamo con un budget, ma è meglio che non glielo dico. Perché? È troppo alto. Ha paura delle tasse? Sì, certo. Su 300 euro? Già al mattino presto, perché? Per evitare le code. Facciamo questa, poi spero basta. E da dove viene? Dalla Francia. A che ora è partita? Alle 6. In Francia non ci sono questi centri commerciali? Sì, ci sono, ma a me piace venire in Italia. Io devo comprare le scarpe a lui e poi se c'è qualche offerta compreremo qualcosa, se no no. Da dove? Da Milano. Vale la pena? Dipende, non sempre. Tante volte sì, tante volte no. Quindi c'è il rischio anche di non fare affari? C'è il rischio anche di non comprare niente, ma tanto uno passa una giornata diversa giusto per passarla, non solo per comprare per forza. Un po' di coda per fare qualche buon... trovare qualche buon prezzo di qualche bel giubbotto. E da dove arriva? Da Cecina, in provincia di Livorno. Lungo viaggio? Sì, due orette di macchina. Ne vale la pena? Sì, ne vale la pena, se no non saremmo qua. Signora, quanto pensa di spendere per questi saldi? Ma sinceramente chi spende è mio marito, contrariamente alle coppie nella norma. 5.000 euro. C'è un budget? Sui 300-400, dipende dalla famiglia. Uguale, sulle 300-400 euro abbigliamento. Non penso andremo gli oltre i 400 euro di spesa totale. Beh, il budget da 5.000 euro non è male. Dunque, oggi è stata anche la giornata nella quale sono stati diffusi i dati sull'inflazione. Sentiamo. Un calo dei prezzi che non si vedeva da oltre mezzo secolo. Stando ai dati dell'Istat, il tasso di inflazione medio annuo nel 2015 è stato dello 0,1%, dallo 0,2% del 2014. Bisogna tornare al 1959 per vedere valori così bassi. Il 2015, in particolare sul fronte dei prezzi, è stato segnato dalla caduta dei listini relativi ai carburanti. L'Istat rileva infatti per i beni energetici non regolamentati una diminuzione nel 2015 pari a meno 10,3, una flessione molto più forte di quella registrata nel 2014, dove già si era avuto un calo del 2%. Accelera invece la dinamica del cosiddetto carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,3% in termini congiunturali e aumentano in termini tendenziali dello 0,9%. A chiarire il quadro a livello europeo ci ha pensato la stima flash di Eurostat. A dicembre il tasso di inflazione annuale dell'area con la moneta unica è stato dello 0,2% stabile rispetto a novembre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre con i mercati e poi abbiamo altri argomenti a partire ancora una volta dall'immigrazione, ma in questo caso da quello che sta succedendo in Svezia. Svezia che ha chiuso il confine con la Danimarca che lo ha chiuso appunto con la Germania. Cercheremo di fare il punto con Anna Maria Corazza Bild, che è un europarlamentare del partito moderato svedese, per avere il loro punto di vista, il punto di vista degli svedesi. Una pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le borse stentano a recuperare dopo la giornata pesante di ieri. Milano è lievemente positiva, al ribasso le altre piazze europee, ne parliamo tra un attimo. L'Europa convoca Svezia, Danimarca e Germania per un coordinamento dopo la chiusura dei confini. L'Italia penserebbe al ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia. Il professor Paolo Becchi lascia il Movimento 5 Stelle, è diventato una stampella del Partito Democratico, dice l'ideologo dei 5 Stelle. Grillo è un ologramma. Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda le tensioni tra Arabia Saudita e Iran. L'Iran ha deciso di sospendere il pellegrinaggio alla Mecca finché Riyadh non garantirà migliori condizioni di sicurezza. La borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in linea con Anna Maria Corazza Bild, europarlamentare del partito moderato svedese, italo-svedese. Buongiorno Bild e bentornata ai nostri microfoni. Buon anno anche a lei. Senta, ci aiuti a capire qualcosa di più di questa decisione del suo paese o del suo paese d'adozione, come preferisce, di chiudere i confini con la Danimarca? Allora, non sono stati chiusi i confini, sono stati introdotti il controllo dell'identità di tutti i passeggeri in mezzi di trasporto pubblici, cioè navi, autobus e treni. E la misura è stata adottata perché consideri che solo a novembre ogni settimana venivano circa 11.000 rifugiati in un solo punto di entrata della Svezia. Quindi la Svezia si è confrontata all'emergenza del corto periodo, cioè dell'accoglienza, e insieme all'emergenza del lungo periodo, cioè l'integrazione nel mercato del lavoro, la scuola, la sanità, eccetera. Molti di questi richiedenti d'asilo arrivano non registrati nei paesi di prima entrata, quindi è come se la Svezia fosse un paese di prima entrata senza ricevere gli aiuti che gli altri paesi di prima entrata ricevono in Europa. E certo. Mi scusi se la fermo, per restare sui numeri, se non erro 150.000 persone, 150.000 richiedenti asilo accolti dall'inizio dell'anno, nell'arco del 2015 più o meno, no? 163.000, di cui 33.000 bambini non accompagnati, che richiedono un impegno maggiore perché è importante accogliere con la massima dignità e massima protezione. È come se l'Italia, pensi, avesse accolto 1 milione di rifugiati solo nel 2015. Eh sì, perché la Svezia conta 10 milioni di abitanti, fatti i debiti, esatto. I rapporti, sì, prego. Esatto, l'importante adesso è che questa misura sia temporanea, di emergenza, cioè per permettere al sistema dell'istituzione dell'accoglienza svedese di lavorare in maniera un pochino più ordinata e normale, e di sapere chi entra, così tanti che arrivano allo stesso tempo, c'è difficoltà a identificare, a prendere richieste di asilo, eccetera. Questo sistema di controllo non impedisce ai richiedenti d'asilo di chiedere asilo se vogliono. La cosa importante è evitare l'effetto domino, il rischio a cascata. Adesso non si tratta assolutamente di salvare Schengen, per me è importantissima la libertà di movimento in Europa, una delle nostre grandi conquiste per gli italiani, per gli svedesi. Ed è importante quindi che sia una misura temporanea. Infatti ho fatto una interpellazione parlamentare alla Commissione già all'inizio di dicembre chiedendo se questa misura svedese era legittima nelle regole di Schengen, che prevedono un tempo limitato e delle ragioni molto specifiche di emergenza e anche di ordine pubblico per introdurle. Tra l'altro, da un punto di vista molto pratico, per i cittadini delle due sponde, quelli danesi e quelli svedesi, questo è un grosso problema, questo dei controlli, no? Sì, guardi, lei ha proprio ragione, perché la regione di Copenaghen e di Malmo, non so come spiegarla in Italia, è totalmente integrata, ci sono circa 30.000 persone che viaggiano avanti e indietro tutti i giorni, di cui circa 15.000 sono pendolari, cioè che lavorano nell'altro paese. È anche un centro di eccellenza, tecnologia, industria, commercio, medicina, eccetera, eccetera, ed è un grande shock per la gente che vive nel sud della Svezia in questo momento la reintroduzione dei controlli. In un certo senso si era data per scontata questa Europa meravigliosa che abbiamo creato e che invece bisogna combattere. La libertà di movimento richiede impegno. Adesso l'importante è, perché siamo arrivati a questo punto? Perché non c'è stato la ridistribuzione, la presa di responsabilità da parte di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea sull'emergenza rifugiati. La Svezia è il paese che ne ha presi di più in assoluto in proporzione alla popolazione, insieme alla Germania, ed è veramente importante che ci sia la solidarietà con l'Italia, per esempio per Lampedusa, per la Sicilia, per l'emergenza del Mediterraneo. Io sono stata fiera che tutt'estate c'è stata la più grande fregata svedese lì ad aiutare nel Mediterraneo. Non basta, ma ci vuole anche la solidarietà adesso con chi non riesce a gestire il corto periodo e il lungo periodo insieme. Bisogna arrivare a una revisione del regolamento di Dublino per un meccanismo almeno semi-obbligatorio. Noi abbiamo votato in Parlamento per un meccanismo obbligatorio di distribuzione degli rifugiati. Sì. Purtroppo gli Stati membri, e sono responsabilità nazionali che poi si scaricano su Bruxelles, ma le responsabilità sono nazionali. Sì. Molti Stati membri hanno rifiutato. Hanno voltato le spalle. E questo è il problema di fondo. Sì, della Svezia, adesso... della Svezia come dell'Italia, evidentemente. La ringrazio. La solidarietà ci vuole tra tutti. La ringrazio. Grazie ad Anna Maria Corazza Bildt, europarlamentare del Partito Moderato Svedese, per essere stata con noi, per averci dato questo quadro interessante. Oggi ricorre l'anno dalla strage al giornale satirico Charlie Hebdo, che fa discutere con la sua nuova copertina. È quasi passato un anno da quel giorno in cui Parigi e tutto il mondo furono sconvolti da un attacco senza precedenti, un attacco a un giornale satirico, Charlie Hebdo, che aveva osato scherzare su Maometto. Un'irriverenza pagata a caro prezzo: in 5 minuti, a colpi di Kalashnikov, vengono uccise 12 persone, giornalisti, impiegati, agenti. Un massacro nella sede del giornale compiuto da 3 uomini, 2 dei quali i fratelli Kouachi, già noti ai servizi e poi uccisi dalla polizia. Ma non basta, perché in un supermercato vengono freddati 4 ostaggi da un altro terrorista, Amedi Coulibaly, poi ucciso anche lui. Un anno dopo, con in mezzo l'inferno del 13 novembre, Charlie lancia un nuovo cazzotto che scatena un mare di polemiche. Nella prima pagina, in un disegno firmato da Rissi, vede un signore con una tunica insanguinata e una lunga barba bianca. Non è più Maometto, ma è il dio di tutte le religioni. E si legge, un anno dopo, l'assassino è ancora in fuga. Come a dire, il colpevole, il vero colpevole, è la religione tutta, perché è sempre nel nome di Dio che si uccide. Un'altra provocazione che irrita la conferenza episcopale francese quanto il presidente del consiglio musulmano. Sola contro tutti, la matita di Charlie continua a colpire. Sola anche contro chi l'aveva difesa, ma adesso non gli perdona più l'allusione a un dio cristiano. Un'urticante solitudine per difendere un simbolo di libertà. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.